Mamma Trona che è? Mamma Trona dov'è? Mamma Trona che fa? Mamma Trona che dice? Ogni giovedì dalle 12 alle 13. Mamma Trona. Musica, parole, racconti, favole. Coriandoli di sogno, coriandoli d'amore, io vedo turbinare nel vento intorno a me. Stelline colorate rischiarano il mio cielo, da quando mi hai baciato, che baci ho dato a te. Tutti e tutte, questa è l'ottava puntata di Mamma Trona. Oggi parleremo di carnevale, di coriandoli, ma anche dei cortei che ci saranno all'8 marzo sia a Roma che in tutta Italia, ma anche nel resto dell'Europa. Allora, abbiamo appena sentito la canzone di Mina, Coriandoli, e adesso continuiamo con un'altra di Caterina Caselli, che è Carnevale. Il ballo in maschera finisce qui, ma tu divertiti ancora un po'. Bye. Allora, oggi parliamo del carnevale. Questa festa che si celebra più che altro nei paesi di tradizione cristiana, soprattutto quelli cattolici. E i festeggiamenti si svolgono spesso con pubbliche parate e manifestazioni, con elementi giocosi e fantasiosi. L'elemento distintivo è soprattutto il mascheramento. Il carnevale, diciamo, in realtà ha origini molto antiche. Soprattutto si rifà ad alcune feste pagane come le Dionisie, che erano celebrazioni liturgiche dedicate al dio Dioniso nell'antica Grecia, e c'erano delle gare che erano gli agoni, dove appunto gareggiavano i poeti più illustri della città di Atene. Ed era proprio in questo periodo, più o meno, quindi era tra marzo e aprile, quindi lo stesso periodo poi è stato riportato anche nel cattolicesimo. Poi c'erano anche questi Saturnali, che erano un ciclo di festività della religione invece romana, dedicata al dio Saturno. Si celebravano intorno dal 17 al 23 dicembre. E si facevano grandi banchetti con sacrifici, e talvolta la festa poteva assumere anche caratteri orgiastici. Durante questi festeggiamenti l'obiettivo era sovvertire l'ordine sociale, quindi gli schiavi diventavano liberi e si eleggeva tra tutti gli schiavi il princeps, ossia il principe, che diventava poi la caricatura della classe nobile del tempo o della classe religiosa. Inoltre, il travestimento, che già da allora si utilizzava, era soprattutto in onore a Saturno, quindi ci si vestiva di rosso con grosse corna, perché Saturno era sia il custode delle anime dei morti, ma anche il protettore dei raccolti. E dopo questa breve carrellata storica, a voi mascherina dell'Itfiba. Non credo che tu mi prenda fra le tue braccia, sai. Vorrei capire il tuo pensiero e basta. Parla in faccia l'ideale, e preferisco sia così. Le mezze parole mi fanno male, e la tua maschera mi butta giù. Perché? Nella mia testa vedo cose. adesso invece passiamo a una canzone di Fabrizio De André, che è Al ballo mascherato. Allora, il brano proviene da uno dei CD, insomma, dischi di Fabrizio De André più belli, che è Storia di un impiegato. E appunto il ballo mascherato partecipano tutti, i miti, le autorità, i personaggi, i ruoli che hanno imposto all'impiegato è un comportamento appunto alienante. Ora vengono smascherati, quasi beffeggiati, con un ritmo swing. Le parole sono forti, sono veramente taglienti, però allo stesso tempo la musica è allegra, è carnevalesca. E i personaggi sono raggruppati e non ci sono né differenze di tempo, e appunto c'è Dante, c'è Cristo, quindi non c'è Nelson, nel senso non c'è appunto un filo conduttore di tempo. Il primo è Cristo, che è il mito della religione e che tenta da sempre di imporre a tutti lo stesso comportamento. E poi c'è il turno di Dante, il sommo poeta, viene ritratto come un guardone intento a spiare Paolo e Francesca. Poi dopo aver smontato anche il mito del colonialismo, abbiamo l'ammiraglio Nelson. L'impiegato passa alla famiglia, anche il padre, sempre diviso tra l'affetto e l'autorità che la sua veste sociale gli impone, e la madre, relegata a donna di casa e a non splendere di luce propria. Allo scoppio della bomba il padre esplode. Prima il suo decoro, mentre la madre prima di morire riesce perfino a provare pietà per la propria vita. Quindi questa è l'immagine che ci dà De André di questa festa delle celebrità. E alla fine chi è che muore? Muore proprio l'amico che gli ha insegnato come si fa. Muore appunto con l'uccisione dell'impiegato, in questo sogno ha portato a termine la propria liberazione, si è liberato veramente. Allora, questa è un po' la spiegazione del testo di De André. Adesso l'andiamo a ascoltare al ballo delle celebrità, Fabrizio De André. Drogato da troppe sconfitte, cede alla complicità di Nobel che gli espone la praticità di un eventuale premio della bontà. Maria, ignorata da un Edipo ormai scaltro, mima una sua nostalgia di natività. Io con la mia bomba porto la novità, la bomba che debutta in società, al ballo mascherato della celebrità. Dante alla porta di Paolo e Francesca, spia chi fa meglio di lui. Lì dietro si racconta un amore normale, ma lui saprà poi renderlo tanto geniale. E il viaggio all'inferno ora fallo da solo, con l'ultima invidia lasciatala sotto un lenzuolo. Sorpresa sulla porta d'una felicità, la bomba ha risparmiato la normalità, al ballo mascherato della celebrità. Non ha una natura gentile, ma spinta da imparzialità sconvolge l'improbabile intimità di un'apparente statua della pietà. Grimilde di Manhattan, statua della libertà, adesso non ha più rivali la tua vanità, e il gioco dello specchio non si ripeterà. Sono più bella io o la statua della pietà, dopo il ballo mascherato della celebrità. Nelson, strappato al suo carnevale, rincorre la sua identità,

Adesso vi parliamo della Nouvelle Vogue, che è un gruppo musicale, è un progetto musicale francese di Mark Collin e Oliver Leeboux, che si propone di riprendere alcuni classici della New Wave e del punk anni 80 e li reinterpreta in stile bossa nova. Il nome del progetto è un gioco di parole che indica in primo luogo la nazionalità del gruppo, facendo riferimento al celebre movimento del cinema francese dagli anni 60, la Nouvelle Vague, appunto. In secondo luogo, Nouvelle Vague è la traduzione francese dell'inglese New Wave e allude alla bossa nova. Adesso vi facciamo sentire di Nouvelle Vague Just Can't Get Enough. Invece parliamo dell'Orfeo Negro, che è appunto questo film del 1959 che è la trasposizione appunto del mito di Orfeo in tempi moderni in Brasile, ambientato nel carnevale brasiliano. Allora, appunto, la parte importante del film, oltre ai colori, alla sceneggiatura, alla scenografia, è anche la musica del Brasile. Da Felicidade di Agostinho dos Santos abbiamo diciamo inizi della di samba e di bossa nova. Abbiamo anche noti jazzisti che suonano per la colonna sonora di questo film, appunto con ritmi di jazz e di samba. Il film fece molto successo sia ovviamente in Brasile, ma in tutti gli Stati Uniti e poi anche in Europa. Adesso andiamo ad ascoltare Samba de Orfeo. Thank you. Eccoci qui. Allora, dal Brasile facciamo un salto in Germania. In Germania, sulle coste del Reno, a Düsseldorf. A Düsseldorf, oltre ad esserci un carnevale come molti altri, quindi maschere, festeggiamenti, parate e ovviamente birra a fiumi, c'è una particolarità, che questo carnevale è inaugurato dalla giornata delle zitelle, chiamata Alt Weiber Fastnacht, in cui queste zitelle impazzite girano per la città e, con delle forbici in mano, e qualunque uomo incontrino sulla loro strada lo privano di un elemento molto importante per la loro fisicità maschile, cioè un pezzo della cravatta. Gli tagliano via la cravatta. Cosa vorrà dire? Non lo so, lascio a vostra interpretazione. Oltre a questo, c'è pure un'occupazione simbolica del municipio di Düsseldorf, occupato per un giorno dalle donne, e appunto il sindaco simbolicamente si dimette per paura di perdere la sua cravatta. Sostanzialmente le donne fanno quello che vogliono per quel giorno, mariti e fidanzati, per i mariti e fidanzati è meglio allontanarsi e ritrarsi. Ora passiamo a una canzone da Austin Powers. Sentiamo Soul Bossa Nova. Invece una canzone di De Gregori ascolteremo, che si ispira ad Arlecchino. Chi era Arlecchino? Arlecchino era una famosa maschera bergamasca della commedia dell'arte, molto colorata, con questa maschera nera, e in lingua francese il suo nome è Arlecchino, oppure in inglese è Arlequin. La maschera ha origini appunto dalla contaminazione di tradizioni sia bergamasche ma anche di personaggi diabolici farzeschi della tradizione popolare francese. Allora, adesso andiamo ad ascoltare appunto la canzone di Francesco De Gregori, che diciamo ridà a questo personaggio non proprio molta allegria, anzi lo rende quasi melanconico. Arlecchino, Francesco De Gregori. Sogni veri tra gli eroi della friggitoria Chantin. Grazie, ho già mangiato ieri, un sorriso stasera basterà. Arlecchino è già sul filo, La gente vuol vedere cosa fa e il filo corre sopra la città. E tutto il mondo è tutto qua. Dove vai? Quanti soldi ti hanno dato? Quanti fiori e quanti anni? Dove vai? Dove vai? La mia cella è un po' più in alto e mi pagano di più. Carnevale in filastrocca, con la maschera sulla bocca, con la maschera sugli occhi, con le toppe sui ginocchi. Son le toppe d'Arlecchino, vestito di carta, poverino. Pulcinella è grosso e bianco, e Pierò fa il saltimbanco. Pantalon dei bisognosi, Colombina dice, mi sposi? Gianduia lecca un cioccolatino e non me ne dà niente a Meneghino, mentre Gioppino col suo randello me ne abbotte a stenterello. Per fortuna il dottor Balanzone gli fa una bella medicazione, poi lo consola. È carnevale e ogni scherzo per oggi vale. Dove vai? Quanti soldi ti hanno dato? Quanti fiori e quanti... Carnevale di Gianni Rodari. Dove vai? La mia cella è un po' più stretta e mi pagano di più. E adesso invece ascoltiamo dei Placebo, Pierrot the Clown. Back here tomorrow for the next round. Keep this scene inside your head as the bruises turn to yellow, the swelling goes down, and if you're ever around in the city or the suburbs of this town, be sure to come around. Crashing round the bay, never seen you act so shallow or look so brown. Remember all the things you'd say, how your promises rang hollow as you threw me to the ground. And if you're ever around in the back streets or the alleys of this town, be sure to come around. I'll be wallowing in pity, wearing a frown like Piero the Clown. When I dream of your tomorrow for the next round. Adesso vi parliamo di Sergio Santos Mendes, che è un pianista, arrangiatore e cantante brasiliano, che dopo essersi diplomato pianista al conservatorio del posto locale, Mendes cominciò a suonare nei locali negli anni 50. Il suo stile è bossa nova, contaminato dalla sua passione per il jazz. In queste circostanze conobbe molti artisti brasiliani dell'epoca, come Jobim ed altri. Formò il suo primo gruppo, che si chiamava Sexteto Bossa Rio, ed incise il suo primo disco, Dance Moderno, del 61. Ora vi facciamo sentire di Sergio Mendes, País Tropical. Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. É fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusco e violão. Sou Flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Adesso parliamo un po' di quello che è il carnevale. Ad esempio, l'autore russo Bakhtin, in una sua opera criticando Rabelais e il carnevale medievale, spiega appunto la funzione, diciamo, sociale di quello che è il carnevale, ovvero per un giorno tutti i cortigiani, tutte le persone anche del popolo diventano re, diventano regine, si sovverte quello che è l'ordine normale della società. C'è la possibilità di eludere, di prendere in giro anche la morte. Qualsiasi ruolo impostato della società viene completamente rivisto, viene appunto ribaltato. Questa è la funzione che dal Medioevo, insomma, fino ai giorni di oggi abbiamo del carnevale. Varie sono le feste importanti e più famose, dal Venezia al Brasile, abbiamo visto prima anche quello di Düsseldorf, e poi c'è anche qui vicino, diciamo, quello del carnevale liberato, appunto come festa, ma non solo, insomma, anche come ricorrenza anticlericale. Quindi diciamo, la puntata di oggi, oltre a ripercorrere quelle che sono le canzoni che più di tutte si sono ispirate al carnevale, e anche spiegare in fin dei conti che il carnevale, oltre ad essere una festa, è anche un momento di riscatto per chi poi tutti i giorni, insomma, deve vivere in una determinata maniera. Adesso ascoltiamo una canzone che in realtà parla di coriandoli, però in un periodo dell'anno in cui non è, insomma, il periodo giusto, ovvero a Natale. Ascoltiamo una canzone dei Subsonica, appunto si chiama Coriandoli a Natale. Side. quest'anno è veramente particolare, è quasi inusuale. Le date coincidono in modo strano. Infatti abbiamo l'8 marzo che è il giorno di Carnevale, il 25 aprile che è il giorno di Pasqua, e il 1 maggio che è il sacro giorno dei lavoratori, verrà eletto santo Giovanni Paolo II. Insomma, tutte queste contraddizioni ci fanno un po' pensare. Soprattutto considerando che negli ultimi mesi un'energia nuova e dirompente è emersa nelle mobilitazioni, sia riguardo l'università, sia riguardo i precari, e fino ad aggiungere alle ribellioni che si stanno svolgendo in Egitto e nelle coste del Mediterraneo. Quindi si sente oggi questo grido di rivolta e di denuncia di un sistema sociale ingiusto, di cui il popolo si rifiuta di pagare i costi e le conseguenze. Il 13 febbraio, a fronte dei vari scandali mediatici riguardo il nostro Presidente del Consiglio, moltissime donne sono scese in piazza per parlare, appunto, per opporsi alle politiche che soffocano le nostre vite e che hanno portato a un restringimento dei nostri diritti e dei nostri spazi di libertà. Quindi abbiamo attraversato Piazza del Popolo, invaso le strade di Roma e ci siamo spinte fino a Montecitorio per restituire al mittente le leggi contro le donne approvate negli ultimi anni da questo governo di centrodestra. Poi, insomma, le dimissioni in bianco, il collegato al lavoro, la legge 40 sulla procreazione assistita, l'innalzamento dell'età pensionabile, il pacchetto sicurezza e bla bla bla e tante altre cose. Adesso parliamo dell'8 marzo. Allora, appunto, come diceva l'altra mammatrona, Carnevale, che comunque, come dicevo prima, è appunto una festa ma anche un giorno di lotta. Questo 8 marzo ci sarà un corteo notturno da Piazza Bocca della Verità alle 18 e da lì cercheremo di invadere con la stessa forza che abbiamo utilizzato il 13. Ricordo che un gruppo ben folto di donne non è stata in piazza ad ascoltare, diciamo, discorsi dal palco, è andata sotto il Palazzo del Potere a ridare quelli che erano i pacchi che ci sono stati dati in questi anni, senza, insomma, andando oltre quella che è la polemica di Berlusconi. L'8 marzo vogliamo riportare in piazza questa voce, con lo stesso linguaggio impetuoso, vogliamo rimettere al centro della questione quella che è la redistribuzione delle ricchezze, dei profitti, che ovviamente stiamo pagando anche noi, soprattutto noi donne. Siamo le stesse che in questi mesi stanno lottando contro la proposta di legge Tarzia, che vuole i privati all'interno dei consultori. Siamo le stesse che questi giorni sono totalmente arrabbiate perché vedono questa città di nuovo strumentalizzare gli stupri, sia da parte del sindaco, da parte anche della sinistra, che come ogni volta strumentalizza il nostro corpo per fare delle politiche che siano securitarie o che siano per mettere in cattiva luce le mani. Non ci interessa questo, ci interessa di parlare di violenza sulle donne, che succede all'interno delle mura domestiche e in minima parte, ovviamente con tutto il rispetto per le donne violentate, non è questo il nostro discorso, ma mettere invece, riflettere su quello che succede all'interno delle mura domestiche e il fatto che noi vediamo che in questi anni rivogliono che le donne ritornino dentro le mura domestiche e dall'altra parte non usciamo più e quindi metterci anche la paura. Quello che faremo l'8 marzo è anche ricordare le violenze che succedono all'interno dei CIE, perché con noi vogliamo anche le migranti, poi anche le sex workers, vogliamo ribaltare quello che è l'idea di famiglia eterosessista. Tante sono le argomentazioni che con le altre mammatrone abbiamo tirato fuori. L'8 marzo speriamo di vedervi tutte e tutti alle 18 a Piazza Bocca della Verità. E adesso ascoltiamo una canzone presa da Grindhouse, Chic Habit. Or you're liable adesso qui in radio abbiamo una special guest dalla Catalogna, da Barcellona, la nostra amica Laia, che ci parla insomma dell'8 marzo, perché insomma ogni città, in ogni città ci saranno manifestazioni e movimenti. E quindi raccontaci un po', Laia, cosa farete voi l'8 marzo a Barcellona? Quest'anno anche noi a Barcellona facciamo il corteo notturno solo per donne, lesbiche e trans, che è una cosa che non è successo dopo 30 anni fa a Barcellona. E come siamo anche un po' stanche di che l'8 marzo è diventato molto istituzionale, quest'anno abbiamo voluto organizzare delle giornate, una giornata d'azione femminista autonoma, dove ci saranno un sacco di feste, di performance, di azione, questo corteo notturno, ci sarà il circo, un sacco d'altre cose che qui non possiamo spiegare. Queste giornate sono non miste, senza uomini, senza partiti, senza istituzione, senza bandiere. Vogliamo che siano una giornata per noi, per donne lesbiche e trans, e facciamo anche un invito durante tutta questa settimana, che per noi inizia il 5 marzo, a fare un invito all'azione, a riprenderci le strade, ma non solo per il corteo notturno, ma ogni notte a conspirare, a boicottare e a uscire alla fine, cioè ogni sera. Anche possiamo fare questo invito qua a Roma. Sì, partecipare numerose, appunto perché questo corteo sarà aperto a quelle persone che in realtà, a cui non si chiede mai un'opinione, come le sex workers, come le donne in realtà, come le trans, le lesbiche. E quindi vi ridiamo questo appuntamento l'8 marzo a Piazza della Verità alle 6 di pomeriggio, e vi facciamo sentire questa canzone. Madre, te va a casar con la matonta, chiquillo. Esto se va a acabar, es que un día de esto te la voy a cortar. Lorena, Bobby. Se separan a grito por un dolor y un poquito. Se separan a grito por un dolor y un poquito. Como si fuera un poquito, dando patadas al aire, como si fuera un poquito, y, yo por ti. Y no me vuelven a hablar, no me vuelven a hablar, no me vuelven a mirar, y no me vuelven a hablar, no me vuelven a hablar, no me vuelven a mirar, se cabrean por la gente, la última cena le voy a invitar. Ha prometido esta que ya mis tripas cantan sola, que no te fueran nunca, quisieran que no mantuviera, quisieran y que siempre. E allora diamo gli appuntamenti appunto per quanto riguarda il corteo dell'8 marzo. Martedì 8 marzo ore 18 a Piazza Bocca della Verità, e arriviamo fino a Campo dei Fiori. Se volete aderire, la mail è lotto.tuttolanno@gmail.com. Se volete leggere tutto il comunicato, allora il sito è www.riprendiamociconsultori.noblogs.org. Vi aspettiamo martedì, giornata di carnevale, di festa, ma anche di lotta, e venerdì 4 alle 11 ci sarà la conferenza stampa al Campidoglio. Adesso ascoltiamo una canzone di Ida Maria Stella. Always had the best of drugs, knew what to get them from the lady friend, and I believe her name was Stella, and he said, Stella, Stella, I wanna give you the world if you just stay with me tonight. Stella, Stella, I wanna give you the world if you just not blink to me and ask what is real love to you, what is fake and what is true. Oh, Stella, Stella, I wanna give you the world if you just stay with me tonight. Stella, Stella, I wanna give you the world if you just hold me tight. Stella, Stella, I wanna give you the world if you just stay with me tonight. Stella, Stella, I wanna give you the world if you just hold me tight. Hold me tight. Hold me tight. Hold me tight. Oh, oh, oh. Ebbene, bene. Mamma Trona sta quasi per finire, vi abbiamo dato tutti questi appuntamenti. La prossima puntata sarà sulle cantautrici, quindi sulle persone che suonano e cantano. E quindi vogliamo dare un grosso bacione alla nostra Laia, che oggi partirà, tornerà nella sua Barcellona. E niente, vi salutiamo. Un ciao di gruppo. Ciao! E va bene, allora alla prossima puntata, giovedì, e adesso vi spariamo Niccolò Paganini con Carnevale di Venezia.